pubblicata sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Sardo Giambonino, una nuova poesia del poeta Francesco Buttini dal titolo Se ti guardo. Se ti guardo mi sento vicino al cielo, il suo azzurro ti bacia la faccia, il mio petto esplode e nulla conta, fuorché le tue labbra, morbido velluto sognante, ed afferro l'infinito.